Radio 24 Reportage. La nuova sfida di Obama, di Roberto Antonini. I thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is our sailing day. Vento di crisi sull'America di Obama, le elezioni di medio termine all'insegna delle grandi preoccupazioni. Non la guerra, non i cambiamenti climatici, ma semplicemente i posti di lavoro. La disoccupazione sfiora il 10% e colpisce colletti blu e colletti bianchi. La classe media è inquieta. Diane, una nera della middle class di Brooklyn a New York, non se l'aspettava. Nella sua fabbrica di vestiti per l'alta moda era una delle impiegate più apprezzate. Never thought it would happen to me and I was totally unprepared for all the different emotions. Trattiene a fatica il pianto quando ci racconta: non mi era mai successo, non mi ero preparata. In aprile l'annuncio, il suo posto di manager viene cancellato. Si accorge di quanto il lavoro fosse legato alla sua identità. Una perdita che porta alla depressione. Ci vuole una mezz'ora di metro per raggiungere Brooklyn Heights, un'altra area di Brooklyn, quartiere di New York, ma con i suoi 2,5 milioni di abitanti, più grande di molte città americane. It was tough, particularly after going 25 years. I remember telling a friend of mine, I lost my job. 25 anni di lavoro e poi di colpo lo shock per Tonya Denitz. And of course, when they sat down with me and when I say they, meaning the human resources folks, actually it was my boss who came in and il mio capo aveva le lacrime agli occhi, racconta. Certo, continua Tonya, mi ha detto che non c'entrava la qualità del lavoro, che ero molto brava, ma tutto ciò non cambiava nulla e l'impatto emotivo è stato molto forte. Tonya Denitz ci riceve in una stanza della chiesa presbiteriana di Henry Street, dove organizza ogni sabato dei corsi per aiutare psicologicamente chi, come lei, ha perso il lavoro. Con la recessione globale, anche qui alla Chiesa presbiteriana abbiamo cominciato a vedere dallo scorso anno un numero crescente di persone che da un momento all'altro si è trovato senza lavoro. Dall'inizio della recessione, ogni settimana, in media, 500.000 persone perdono il loro lavoro. Since the recession started back in 2008, roughly every week, somewhere near 500,000, which is 500,000 people, are going on unemployment. What we felt was missing was a support group or group that would provide a resource to help people who were emotionally distraught. Quanto abbiamo voluto fare è colmare una lacuna, riunirci per aiutarci psicologicamente, per far fronte ai nostri traumi e aiutarci a fare passi concreti, perché cercare un lavoro non è più come 20 anni fa, le cose sono cambiate, bisogna muoversi diversamente. Looked for employment 20 years ago is not the same as it is today. Property tax relief, and New Yorkers who have been taken advantage of by credit card companies, for workers who've had their jobs shipped overseas, and for all of us who are paying too high a price for the broken government. Economia, quasi unicamente economia. La campagna elettorale gira attorno a cifre, statistiche, dati che convergono su un termine: crisi. Le difficoltà maggiori in questo contesto sono ovviamente per chi governa, la maggioranza democratica e il presidente Barack Obama. Sì, l'economia americana è in una posizione molto molto difficile. Francesco Guerrera, caporedattore Finanza al Financial Times di New York. La ripresa non c'è quasi stata, soprattutto dal punto di vista dell'occupazione. Il tasso di disoccupazione in America rimane molto elevato, intorno al 10%, che è molto elevato dal punto di vista storico. Il problema adesso è che l'inizio dello stimolo, cioè i 700 miliardi di dollari che il governo americano ha messo subito all'interno dell'economia un 6-7 mesi fa, non sono chiaramente bastati. Quindi c'è bisogno di molto più stimolo. Il problema è che il governo, il Parlamento e soprattutto il Paese sono molto preoccupati del deficit, quindi molto più stimolo adesso vorrà dire tasse più alte tra 2 o 3 anni o un deficit molto più alto tra 2 o 3 anni. I thought I heard the captain say, pay me my money down. Tasse in America suona quasi come una bestemmia ed è proprio sul timore di un aumento delle imposte che ha costruito la sua notorietà il movimento del Tea Party, i conservatori tra i conservatori, la destra del Partito Repubblicano. Oh. very upset about what's been going on. We came to support conservatism, low taxes, small government. Meno tasse, meno Stato. Il leitmotiv dei raduni del Tea Party, riassunto qui da militanti riuniti in una manifestazione a Washington in un servizio della rete televisiva CBS. La battaglia anti-Obama si fa feroce, alimentata dai talk show televisivi e soprattutto radiofonici, come quelli ormai celebri di Rush Limbaugh. Barack sta distruggendo il paese e io so che questo è il suo vero obiettivo. Lo scontro in queste midterm appare duro, frontale, anche perché la grande industria e la finanza hanno rovesciato milioni di dollari nella campagna, quasi sempre in opposizione al presidente. Dottor Guerrera, perché la corporate America si è schierata contro Obama? Credo che uno dei motivi principali sia il fatto che nel momento brutto della crisi il governo Obama attaccò Wall Street molto duramente, però fece anche, secondo me, l'errore tattico di far paragonare Wall Street e corporate America, il resto della società, le società non finanziarie, e coinvolgere tutti nel loro attacco, e questo ha creato una posizione molto dura dalla parte di corporate America, che ora pensa che il governo sia contro di lei. C'è un grande assente nella campagna elettorale, un assente di peso, la guerra. Well, my feeling is that because there's really no willpower on the part of either party to stop the wars, they're not going to discuss it. Sara Furo ha un figlio in Iraq ed è membro del gruppo MFSO, Military Family Speak Out, le famiglie dei soldati che si oppongono alla guerra. Ci riceve nella sua casetta di Natick, immersa nel bosco, non lontano da Boston. In realtà la guerra non interessa perché sono coinvolti non più dell'1% della popolazione. La gente ha altre priorità, è preoccupata per l'economia, l'assicurazione malattia, il lavoro, la casa, la scuola, i figli. Il fatto però è che tutte queste cose, secondo me, sono legate alla guerra, alla quale vanno i soldi che potrebbero essere utilizzati differentemente. Eppure la guerra in Iraq e Afghanistan, seppur meno visibile, continua per molti ad essere un incubo e una ferita. Nel centro di Boston ci recchiamo al rifugio per veterani senza tetto, uno stabile di 10 piani dove convergono centinaia di homeless. And we serve lunch now right until about 145,000 meals a year are served here. Steven Caniff ci fa da guida, ci mostra dormitori, cucine, uffici, le stanze adibite alle cure sanitarie, alla consulenza psicologica. Obiettivi sono l'aiuto e il reintegro. Il problema centrale, il post-traumatic stress disorder, i traumi della guerra che portano all'abuso di alcol e droghe. Drammi che si porta addosso. Brazen ha 26 anni, due missioni in Iraq e al rientro alcol e droghe, marginazione. Brazen ha perso tutto. Sì, la casa, la macchina, ci racconta. Cosa potevo fare al rientro? Non potevo immaginare di stare 8 ore in ufficio dopo quello che avevo visto laggiù, e così mi sono lasciato andare con l'alcol, le droghe, fino a superare ogni limite e a distruggere la mia vita. L'annata 2010 all'insegna della preoccupazione. La Speranza ha scritto un quotidiano e un vento che non soffia due volte. E malgrado numerosi successi, Barack Obama rischia di subire gli effetti di un contesto difficile e di un clima di disillusione ben rappresentato dalle parole di questa donna nera, che in una cittadina dell'Indiana si rivolge al presidente dicendogli: ho votato per lei perché aveva promesso un cambiamento significativo per la classe media, ma finora questo cambiamento io non l'ho visto. Michael Dukakis, ex governatore del Massachusetts e candidato alla presidenza contro Bush padre nel 1988, riassume bene la posizione di molti democratici convinti che in realtà Obama abbia lavorato bene. Il problema sarebbe dunque un altro. Penso che il presidente abbia fatto un lavoro straordinario in un contesto molto difficile, ma noi democratici non abbiamo fatto abbastanza per far sì che gli americani capissero due cose. La recessione è il risultato del fallimento della politica di Bush. In secondo luogo, avremmo dovuto ricordare quanto è stato fatto in questi 21 mesi di presidenza Obama, perché la gente è portata a dimenticare molto facilmente, sottolinea Dukakis. Non v'è dubbio che in questa campagna elettorale il messaggio dell'opposizione repubblicana è sembrato più convinto e certamente molto più insistente di quello del partito che governa la superpotenza e che rischia di perdere seriamente il controllo di quel congresso che conquistò meno di 2 anni fa. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.